soddisfazione, suoni dimenticati nella memoria, nella memoria, nella memoria. Legati a letti e di impazienti, come pazienti senza diagnosi, legati al tempo che ci sfugge, parola chiave, introspezione. Fase down, fase down, livello basso di percezione e comunicazione. Io scappo, io rimango e cerco. Sai di qualche posto dove vivere? Tempo reale. Buongiorno, cittadini. Fase down, fase down. Livello basso di percezione e comunicazione. Io scappo, io rimango e cerco. Parole chiave, autocontrollo, equilibrio. E cerco strade alternative in cerca di coscienza. In cerca di coscienza, in cerca di coscienza. In cerca di coscienza.